Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, si chiama AF3, Advanced Forest Fire Fighting, ed è il progetto finanziato dal settimo programma quadro con cui l'Unione Europea mira a ridisegnare l'approccio agli incendi boschivi. Parliamo di un mix di buone pratiche, a partire da un maggiore coordinamento delle forze a livello europeo e una maggiore condivisione delle informazioni. Ma parliamo anche di nuove tecnologie, alcune delle quali piuttosto sorprendenti. Ne parliamo con Vittorio Verda, che è professore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino, Politecnico che è parte di questo consorzio AF3. Buonasera Verda. Buonasera a lei. Senta, allora, dicevamo, novità tecnologiche. Ce ne sono due che possiamo forse mettere un po' insieme. L'uso di tecnologie indossabili e di droni, dico che le possiamo mettere insieme perché diciamo servono soprattutto a raccogliere informazioni in modo nuovo. Sì, a raccogliere e a fornire poi informazioni, nel senso che queste indicazioni vengono poi sfruttate all'interno di un sistema software che permette di controllare quello che è uno scenario di incendio e quindi poter fornire delle informazioni sia agli operatori in campo, per esempio qualora si verificasse che alcuni degli operatori fossero particolarmente sotto stress ed è previsto che magari l'incendio evolva in un modo che potrebbe rappresentare per loro un rischio, li si possono avvisare in tempo utile in modo che si sposti. Ecco, perché queste tecnologie indossabili che cosa misurano? Misurano di fatto la frequenza cardiaca piuttosto che temperatura esterna, proprio temperatura dell'aria, esatto. Non della persona, perché ovviamente questa si può trovare in mezzo alle fiamme. Ecco, quindi queste informazioni sullo stato di salute, sull'ambiente in cui si trovano gli operatori, mentre i droni che tipo di informazioni raccolgono? Beh, raccolgono informazioni circa lo scenario di incendio, ecco. Quindi quello che è il profilo, ma anche dove si trovano le varie forze o eventualmente persone che fossero coinvolte nello scenario loro malgrado. Ok, quindi insomma la classica attività di monitoraggio del territorio, esatto. In questo caso durante però un incendio. Esatto. Ecco, queste informazioni, dicevamo, vengono poi usate per gestire le forze in campo e tra le varie opzioni, diciamo, per poi spegnerlo, questo benedetto incendio, c'è anche una novità tecnologica che vede coinvolti gli aerei, i famosi Canadair, per esempio. Siamo tutti abituati, abbiamo visto tutte queste immagini di questi aerei che quasi volano tra le fiamme per scaricare acqua sull'incendio. Voi avete pensato a qualcosa di diverso? Sì, abbiamo pensato a qualcosa che possa di fatto integrare quella che è l'approccio tradizionale, proprio perché alcune situazioni possono rappresentare per i piloti un vero e proprio rischio, perché esattamente come diceva lei, volano a una quota molto bassa e molto vicina alle fiamme. Ma perché c'è bisogno di volare così bassi e così vicine alle fiamme? C'è un motivo, no? Sì, c'è un motivo, è legato al fatto che nel momento in cui l'acqua viene scaricata, se il lancio venisse da una quota troppo alta, non raggiungerebbe di fatto la superficie dove si nebulizza al punto tale, esatto. Per cui quando arriva a terra, se arriva a terra e non evapora a causa delle fiamme, sostanzialmente esatto, è una pioggerella del tutto inutile, no? Per cui bisogna avvicinarsi molto all'incendio. Allora che cosa avete pensato? Allora, una delle tecnologie che vengono proposte è basata sull'incapsulamento di acqua piuttosto che eventualmente acqua più agenti ritardanti all'interno di sacchetti biodegradabili che hanno il peso di circa 2,5 kg e che possono in questo modo essere lanciati da una quota molto più elevata, perché grazie all'incapsulamento possono arrivare sull'incendio in modo preciso. Vengono giù dritti sostanzialmente, sono dei gavettoni praticamente, dei gavettoni. Un po' tecnologici questi qui, no? Esattamente, sono proprio dei gavettoni e questo permette da un lato di incrementare la precisione del lancio, dall'altro quella di poterla effettuare in situazioni di rischio, e quindi quando per esempio il terreno presentasse delle asperità particolari. E poi un'altra opportunità è quella di intervenire di notte, cosa che non è assolutamente possibile, anzi vietata con l'utilizzo dei mezzi tradizionali. Proprio per il pericolo che si corre, no? Se bisogna volare bassi, in mezzo alle fiamme, per di più non ci si vede neanche, è veramente pericoloso. Esattamente. Questo sistema permetterebbe, visto che il volo potrebbe essere effettuato ad elevata quota, di intervenire anche di notte, cosa che sarebbe importante nel caso in cui l'incendio fosse di estensione molto grande. Molto, molto significativa. D'accordo, d'accordo. E prima o poi, insomma, probabilmente li vedremo in azione questi mezzi sganciagavettoni. È la cosa che ci auguriamo. Senta, ma saranno sempre dei Canadair o è probabile che a quel punto si cambi anche il tipo di aereo, diciamo? No, l'idea sarà proprio in futuro poter cambiare tipo di aereo, andare verso dei cargo. Va bene, grazie. Grazie Vittorio Verda. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Vi lascio a Effetto Notte. Buona serata.